sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Oggi è venerdì 2 gennaio del 2015. Sono passati quasi 4 anni da quando abbiamo iniziato questo programma e abbiamo raccontato quasi 1000 storie. Sono Alberto, vivo a Prato. Ciao, sono Corrado, ho 59 anni. Ciao, sono Maura, 37 anni. Ciao, sono Alessandra, sono di Caserta. Sono Federico, vivo a Genova. Sono Giulia, vivo a Mirandolo Terme, in provincia di Pavia. Sono Paolo, ingegnere meccanico di Piacenza. Sono Elide, vivo a San Giorgio in Bosco. Sono Tiziano, vivo a Saghello. Comunque, questa è la mia storia e io sono qui. Io invece sono Matteo Caccia, ho 39 anni e nella vita raccolgo, scrivo e racconto storie. E questa è l'ultima storia di Voi siete qui. Ciao Matte, in questi anni gli ascoltatori ci hanno fatto un regalo incredibile. Io e te siamo stati gli unici due sul pianeta Terra negli ultimi 4 anni ad essere entrati nelle vite di migliaia di persone. Solo la Stasi ha fatto di meglio. Gli ascoltatori hanno sentito circa 1000 storie. Io e te ne abbiamo lette e conosciute più di 8000. E leggere la vita di 8000 persone ti cambia un po' la prospettiva sul mondo. Ti senti un po' più forte perché sai che tanti messi peggio di te poi alla fine ce l'hanno fatta. Trovi punti di contatto con persone diversi anni luce da te. Dal 2010 ad oggi io sono diventato vecchio. Ho imparato a tirare di scherma. Mi sono messo con la ragazza che volevo. Ho scalato montagne nuove. Ho cambiato idea su Milano. Ho comprato uno zaino nuovo e potrei andare avanti. E in mezzo a tutto questo, ogni giorno, c'era la storia di uno sconosciuto a farmi compagnia. E per te deve essere stato ancora più forte che per me, immagino. Ecco, nell'ultima puntata di Voi siete qui, quella del 2 di gennaio, io vorrei raccontare agli ascoltatori che cosa ci è e ti è successo in questi 5 anni. E magari chiedere loro che cosa è successo a loro. Dove erano nel 2010 e dove sono oggi. Perché non solo loro, ma anche tu ed io siamo punti rossi su una mappa. Ciao, Tiziano. Prima o poi sarebbe dovuto succedere. Prima o poi sarebbe dovuto succedere che tutte le cose, quindi anche questa cosa qui, finisse. È successo in un modo, diciamo, abbastanza morbido. È una decisione questa che ho preso personalmente e che ho comunicato alla radio qualche mese fa. Tutti i lavori più o meno funzionano così, no? Che uno prende delle scelte, fa delle scelte professionali in base a delle ambizioni, in base a delle aspettative o anche semplicemente in base a delle scelte emotive, no? Per cui arrivano delle proposte e uno valuta se cambiare o meno la strada. Oggi vi racconterò esattamente come abbiamo deciso di e perché abbiamo deciso di chiudere questa esperienza che io e Tiziano abbiamo fatto qui a Radio 24 per andare ad approdare da un'altra parte e fare altri progetti. Prima di farlo però io vorrei davvero chiudere questa stagione, non solo questa stagione di Voi siete qui, ma questo pezzo di stagione della mia vita, ringraziando tutte le persone che hanno fatto questo programma e ringraziando le persone che l'hanno ascoltato. A me mancherà un pezzo, ovviamente, un pezzo che ha a che fare proprio con un pezzo della mia giornata, che è il pomeriggio in cui grosso modo ero sempre qui, sempre a questo microfono da quasi 5 anni. E immagino, questo mi dice anche mia mamma banalmente, che dice: cosa faccio io alle 4 del pomeriggio? Farei qualcos'altro, mamma. Ad esempio, ascolterai quello che sicuramente Radio 24 avrà da far sentire, che sarà altrettanto bello, o forse di più di quello che abbiamo fatto noi in questi anni. E quando pensavo a questa puntata l'altro giorno, cioè quando pensavo alla puntata del 2 di gennaio, e con una certa fatica anche, no? Perché comunque salutare un po' costa sempre. Non so perché mi veniva in mente sempre questo messaggio che mi arrivava, ultimamente non mi arrivava più, mi arrivava di un ascoltatore che mi diceva: guarda, fai talmente cagare che ti ascolto per tirarmi su di morale. Ecco, io vorrei salutare anche lui, nonostante tutto. Prima di raccontarvi appunto nello specifico come è andata e come sono andati questi 4 anni e di fare, come dire, un punto sulla situazione, io vorrei ricordare il motivo per cui faccio questo mestiere, che è quello di raccogliere e di raccontare storie. Primo, perché si tratta di intrattenimento, perché è un modo per passare il tempo e per passarlo bene. E secondo me perché credo che questo sia un atto politico, vero e proprio, non partitico, non che ha a che fare con la politica, semplicemente ha a che fare con il fatto che mostrando storie diverse, punti di vista diversi sul mondo, questa cosa ci aiuta a vivere un po' meglio e forse il mondo a capirlo meglio. Io vi ricordo che il nostro indirizzo email ancora per poco continua ad esserci, e voi siete qui, @radio24.it. A questo punto non vi chiedo più di mandare storie, vi chiedo semplicemente di ascoltare la nostra. Quando ero ragazzino e con qualcuno che mi piaceva facevo una cosa che mi piaceva, nel momento in cui arrivava la fine ero la persona più triste del pianeta. O almeno così mi sentivo. Che si trattasse di una partita della mia squadra o di un fine settimana con i miei genitori e i loro amici, ricordo che controllavo ossessivamente l'orologio, nella speranza che il tempo non passasse mai, cercando di rimanere aggrappato a quella sensazione di benessere. Crescendo poi, questa sensazione si sviluppò e divenne un po' più articolata, al punto che al ritorno da una vacanza con gli amici in cui tutto era stato armonioso e il mondo sembrava volerti bene, cominciai a domandarmi se non ci fosse la possibilità di non farlo terminare quel momento, di prolungarlo e magari di modificarlo mantenendo però intatto il risultato che aveva su di me. E quindi cominciai a pensare che magari avrei potuto andare a vivere con quegli amici che erano stati i miei compagni di vacanza. Pensavo che avremmo preso una casa tutti insieme e non ci sarebbe mai stata una giornata noiosa. Tutto sarebbe stato perfetto. Insomma, la mia ossessione era la fine delle cose. Non di tutte le cose, ovviamente, ma delle cose che mi facevano stare bene. Poi le cose, appunto, sono cambiate. E sono cambiate quando ho sperimentato che proprio quella cosa lì che volevo, cioè il desiderio di prolungare in eterno una sensazione di piacere, era impossibile. Se non a patto di modificare quella cosa, di cambiarla o magari di terminarla. È stato quando mi sono accorto che le cose che non avevano una fine, che non cambiavano mai, rimanevano immutate e mi annoiavano, o comunque non avevano più lo stesso effetto su di me. Ecco, lì ho iniziato a sperimentare il piacere di fare cose nuove, di scoprire posti e persone che non conoscevo, ma soprattutto ho imparato a riconoscere il momento in cui da qualche parte, nascosta dentro di me, inizio a sentire l'esigenza di cambiare qualcosa. Se non fossimo noi due, saremmo altri due, felici come valigie cadute da un aereo. Siamo arrivati io e Tiziano qui, in questa radio, nel 2010. Era il gennaio del 2010. Oggi è il gennaio del 2015. Sono 5 anni esatti. Un lustro. Come mi ha scritto Tiziano nella mail che vi ho letto, molte cose sono cambiate. Noi siamo cambiati. La radio è cambiata. E immagino che anche voi siate cambiati. È una banalità, ovviamente. Ma dal momento che i giorni fluiscono uno dopo l'altro senza che quasi ce ne accorgiamo, ogni tanto non fa male suddividere la nostra storia in momenti. Ed è facile farlo quando i momenti hanno una data ben precisa. Era lunedì 18 gennaio del 2010. Era questa ora qui, le 16 in punto, e io iniziavo a parlare a questo microfono per la prima volta, vendendo una bottiglia di vetro. Ecco, da quel giorno, sostanzialmente tutti i giorni, salvo la pausa estiva, alle 16, io di qui, Tiziano di là, insieme ad un regista che per la maggior parte delle volte è stato Paolino Corleoni, affiancati da una delle assistenti ai programmi che ci hanno accompagnato, ecco, tutti i giorni, dicevo, noi siamo stati qui. Ed essere qui tutti i giorni significa essere stati anche lì, dove siete voi, tutti i giorni. Anche dall'altra parte della radio. Magari dall'inizio, dai primi giorni, magari più tardi, dopo settimane, mesi o anni, magari un giorno sì e l'altro no. Però questo qui, quello delle 16, è stato un appuntamento nella vita di un po' di persone. E questo di solito genera due cose, genera vicinanza e confidenza. E poi il fatto di entrare nella vita delle persone, e nel caso di voi siete qui, di farlo per oltre 3 stagioni, questo è probabilmente il modo migliore per arrivare così vicini a quelle persone che hanno raccontato le loro storie e così vicini alle loro vite, al punto da avere la sensazione di viverle, quelle storie e quelle vite. E io sono cambiato per diversi motivi in questi 5 anni. Ho cambiato casa 3 volte, ho cambiato moto e automobile, ho incontrato la donna che sposerò, ho preso un cane e l'ho chiamato Ugo. Mi sono avvicinato irrimediabilmente ai 40 anni, ho scritto un libro e corso una maratona, ho perso mia nonna e sto guadagnando un nipote. Ho fatto un po' delle cose che volevo fare e molte altre che nemmeno pensavo di volere. Sono diventato un po' più cinico, ma anche paradossalmente più sentimentale. Ho fatto progetti ambiziosi che spero di realizzare presto, e in tutto questo, ogni giorno ero qui, alle 16. E ogni giorno raccontavo storie mie e poi, negli ultimi anni, soprattutto storie di altri. E tutte quelle storie, ovviamente, mi hanno cambiato. Alcune mi sono rimaste addosso come una specie di piovra che facevo fatica ad allontanare. Altre invece mi sono scivolate via e poi si sono riproposte di nuovo, giorni, mesi, anni dopo. E oggi che questo programma finisce dopo 3 anni e mezzo di storie, mi sembra che il modo migliore per farlo sia ricordare quelle che per qualche motivo ci sono rimaste in testa. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. E visto che questo programma l'abbiamo fatto in diverse persone, in un po' di persone diverse appunto, più o meno sempre io e Tiziano Bonini ovviamente, e quasi sempre Paolino Corleoni, ma a lui si sono alternati Pietro Lacorte, Fabio Cantadori, Gianmarco Ferronato, insomma tutti i tecnici che lavorano meravigliosamente qui alla radio, oltre ovviamente all'assistente ultima, semplicemente da un punto di vista cronologico, Miriam Lucchetti, ma addirittura chi era? Laura Faggin, quando facciamo Vendo Tutto, e Chiara Viola Bottoni e ovviamente Margherita Ina. Insomma, io ho preso alcuni di loro e ho chiesto loro di dirmi, voi che ci avete lavorato a sto programma per tutti questi anni, qual è la storia? Sceglietene una. Scegliete una storia che in qualche modo vi è rimasta addosso. E loro una alla volta me l'hanno raccontato. Tra le tante storie che ho montato, prodotto, che abbiamo messo in onda in questi 4 anni di Voi Siete Qui, sicuramente una delle più belle, una delle più commoventi è quella di Paolo da Vicenza, andata in onda quest'anno a marzo, ed è la storia di un salvataggio di una bambina l'antivigilia di Natale. Mentre Paolo era a far shopping per i regali di Natale, incontra questa mamma con in braccio una bambina che non respirava più, con la testa che penzolava e la mamma in lacrime. Paolo si avvicina e con prontezza la prende tra le braccia e grazie alla manovra di Heimlich la bambina riprende a respirare. Questa è secondo me una tra le più belle e commoventi storie arrivate a Voi Siete Qui. E ha ragione Paolino che si ricorda questa storia. Io devo dire invece non la ricordavo tra le prime che mi sovvengono alla mente, però mi ricordo bene la sua reazione, che se non sbaglio lui non comprò nessun regalo e andò a casa e pianse per 10 minuti ininterrottamente. Sì, fu una storia molto particolare. E poi ovviamente anche a Tiziano sembra quello un po' più burbo, ma solo perché è umbro e mette distanza tra lui e le cose. In realtà però Tiziano è uno che si fa molto prendere dalle storie, e questa è la storia che lui si ricorda meglio. La storia che mi ricordo di più, sarebbe troppo facile dire che è quella di Scagnolari, che ci ricordiamo tutti. A me è rimasta, tra le tante che mi sono rimaste attaccate, quella della, dei due commilitoni, andata in onda forse uno o due Natali fa, in cui a distanza di anni, anche se questi due che si erano conosciuti durante il militare non si erano mai più visti, continuavano per Natale a mandarsi un dolce, a scambiarsi il dolce tipico delle loro zone. Uno viveva a Genova e uno mi pare fosse nel Friuli. Mi è rimasta in testa perché è una storia di amicizia e di umanità tra persone anche molto diverse fra loro, ed è quello che poi è stato l'effetto di Voi Siete Qui su di me, cioè entrare in contatto con persone anche molto diverse da me e condividerne in qualche modo l'umanità. E mi ricordo erano il pandolce e la gubana, i due dolci che si scambiavano, i due commilitoni, che non si erano sostanzialmente più sentiti, non si sentivano più se non per scambiarsi i dolci. E il racconto, l'autore che ce lo mandò, che era di Torino, ce lo scrisse proprio perché ci disse: quello dell'anno scorso fu l'ultimo Natale con la gubana, perché Ezio si chiamava l'altro di Gorizia. Ezio è mancato quest'anno e ce l'ha scritto sua figlia. Questa era la storia, secondo Tiziano, ovviamente, che più che gli sia piaciuta di più, semplicemente che gli è rimasta più addosso. E poi Margherita Ina, che adesso sta facendo altro, però l'abbiamo contattata e visto che lei ha non solo si è smazzata, credo, più di 400, forse 300, 350 storie, ma si è smazzata anche 300-350 persone, ovviamente. Una delle storie che mi sono rimaste più impresse è forse quella dei due ragazzi che si sono conosciuti perché a entrambi piaceva Voi Siete Qui e si sono messi insieme, e noi gli abbiamo chiesto di scrivere una storia per San Valentino, ma nel frattempo loro si sono mollati sempre per colpa nostra, perché gli avevamo chiesto una storia. Quindi mi è rimasta impressa più per l'impatto che la trasmissione aveva avuto sulle loro vite, e che magari ha avuto anche sulle vite di tante altre persone. E certo, era San Valentino, esattamente, ha ragione Marghe. Noi chiedemmo a questi due ragazzi, un ragazzo e una ragazza: visto che vi siete conosciuti per il programma, mandateci una storia comune. E scrivendo questa storia lei si accorse che c'era qualcosa che non andava e gli disse: scusami, ma va tutto bene? E lui: forse non ci amiamo più. Ma in realtà c'è un lieto fine, perché io questi due ragazzi li ho rincontrati per caso ad un concerto ed erano ritornati insieme. Quindi adesso, non per fare il lieto fine a tutti i costi, però è finita, è andato tutto a posto. Ultima, dicevo, ma solo in ordine cronologico, Miriam Lucchetti, che a cui probabilmente è toccato il compito più difficile, cioè salire in corsa su sta carovana e poi scendere insieme a noi quando appunto la carovana si è fermata, che più o meno è esattamente oggi, è il 2 di gennaio del 2015. E anche Miriam, anche se non ne ha fatte 300 come Margherita, ovviamente ha la sua storia preferita. La storia che mi ha colpito di più è una storia recente che è andata in onda a dicembre, è quella di Gianni, il bandito, e mi ha colpito non tanto per la storia in sé, che comunque era bella, ma per come è arrivata in redazione, perché è arrivata tramite il suo amico Luigi, perché purtroppo Gianni ha una malattia molto grave, e quindi aveva chiesto Voi Siete Qui una consulenza editoriale, e dopo insomma alla fine ci siamo accordati per leggere una sua storia, appunto il bandito, il 19 dicembre, che era il compleanno di Gianni. E così mi ha colpito perché in qualche modo con questo programma abbiamo potuto fare un bel regalo di compleanno. Pronto Laura, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Tutto bene. Pronto Enzo, buongiorno. Buongiorno. Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Pronto Sergio. Eccomi Matteo. Pronto Miriam, buongiorno. Ciao Matteo. Ciao, come stai? Pronto Daniela. Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. E anch'io ovviamente ho delle storie che mi ricordo e che mi sono rimaste addosso. Mi ricordo benissimo la storia di Cinzia. Cinzia era la sarta di Trento che aveva scoperto un'isola deserta che era in realtà una penisola ed era pure molto abitata. Lei venne a Live, non so se ve la ricordate, non quest'anno, quello scorso. Mi ricordo però anche la storia della traversata in stile Conrad dell'Oceano Atlantico in mezzo alla tempesta. Mi ricordo la storia del polpo, ovviamente, e dello scherzo a Scagnolari, quella che per tutti è Scagnolari. Ma le storie che ogni tanto riemergono nella mia mente sono anche quelle del contadino saggio della scorsa stagione, quella dei due piloti di caccia che si aiutano e alla fine sono due fratelli, e poi tutte le storie di guerra, quelle arrivate la scorsa estate. Mi ricordo la faccia della signora di Roma che venne al live a raccontare la sua storia ambientata in un ufficio postale, pieno di persone anziane e delle loro storie. E tutte queste storie mi mancheranno. E mi mancheranno un sacco di altre cose, ovviamente. Mi mancherà il tu che mi davo con gli ascoltatori quando rispondevo al telefono, che un po' mi conoscevano per l'abitudine all'ascolto, probabilmente. E un po' io conoscevo loro per la storia che avevano appena consegnato nelle mie mani. Mi mancherà la scaletta che Miriam mi faceva trovare in studio tutti i giorni e i messaggi con le scuse che Tiziano scriveva via WhatsApp, sulla chat di WhatsApp di Voi Siete Qui, per i suoi perenni ritardi quotidiani. Io voglio ringraziare ovviamente Radio 24 che ci ha accolto qui e ci ha fatto fare sostanzialmente sempre quello che ci piaceva fare, senza mai mettersi di traverso. Ringrazio tutte le persone che abbiamo incontrato tutti i giorni qui in redazione, i redattori, gli assistenti, i capi redattori, l'amministratore delegato, i direttori che in questi anni si sono succeduti. Ci tengo a sottolineare, l'ho già fatto ma lo faccio ancora, che questa decisione è una decisione mia. È una decisione che ho condiviso con Tiziano e insieme abbiamo deciso di cambiare e di andare a fare una cosa nuova in una casa nuova. La radio ha accettato questa nostra scelta pur facendoci presente che a loro dispiaceva, così come dispiace a noi, ma tant'è. Come vi dicevo, sono cresciuto con l'ossessione delle cose che finivano e la speranza che potessero durare per sempre. Poi invece si è insinuata l'idea che i cambiamenti facciano bene a tutti, a chi sceglie di farli e a chi sta loro vicino. Ecco perché il momento di cui vi parlavo all'inizio della puntata, quello in cui mi accorgo che è arrivato il momento di cambiare, ecco, quel momento è arrivato. Grazie soprattutto a Luca, grazie soprattutto ad Ettore, perché ringrazio soprattutto Marinella, perché la storia, grazie soprattutto a Pierluigi, ringrazio soprattutto Stefano, ma grazie soprattutto ad Alice, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. E ancora per l'ultima volta, quindi, grazie ancora a tutti voi che siete stati qui, a tutti voi che avete ascoltato e avete raccontato le vostre storie. Continuate a farlo, raccontate storie, fatelo per voi e per chi vi sta intorno. Le storie sicuramente non salveranno il mondo, ma forse ci insegneranno a viverlo meglio. Viva!